Eh? Eh sì. Yeehaw. Sai perché i cowboy dovevano sempre fare yeehaw? Yeehaw. Invece di stare lì con le mucche a lavorare sotto il sole, eccetera, yeehaw. Con le mucche, yeehaw. Chissà. Chiedo asilo. Allora, capa, questi giorni tra Natale e Capodanno solitamente sono usati da tutti nel mondo dei media, per fare il bilancio di fine anno. Facciamolo anche noi, no? Allora, per esempio, a Natale si pensa ai regali, si pensa alla neve, si pensa alla frutta secca e al panettone. Vabbè, Natale, e invece bisognerebbe pensare a quelli che soffrono. Ma vabbè, ma adesso cosa c'è? Quelli che si sono dissanguati per fare i regali, per esempio, per pagare l'IMU, le ritenute d'acconto, l'anticipo dell'IVA, le spese condominiali, e si ritrovano con 36 euro sul conto corrente. È il Natale dei poveri, il Natale che poi passo anch'io, perché quest'anno ho provato ad affiancare al conto corrente bancario, quello postale, ma il risultato è stato concorde, i due conti all'unisono hanno dichiarato che sono povero in canna, tutti e due insieme riusciamo ad arrivare a malapena. Vabbè, ma perché i veri bilanci di fine anno sono questi, le cifre, gli estratti conto di 10 pagine in cui puoi rivederti mentre spendi senza pensarci i soldi che adesso ti servirebbero, drago, per allontanare le scadenze improrogabili di fine anno. Prendi fiato. Sono quelli lì i veri bilanci. Zero, prima della virgola si sono estinti e sono rimasti quelli dopo la virgola, che non conta niente. Vuoi un po' di zero dopo la virgola? Io ne ho qui, guarda. Vabbè, comunque ci sarebbe il modo di sapere in anticipo quanto puoi spendere al giorno. Si tratta di stilare con precisione una lista di entrate regolari e una lista di spese fisse. Se tu sei capace di mettere giù la lista delle entrate regolari, ti do una medaglia perché la mia lista delle entrate. E la metto tra le entrate e la medaglia. Sì, è il fenomeno meno regolare che si possa trovare in natura. Non ci sono. Ma si possono, scusami, prevedere le comete, i terremoti a volte, gli attentati terroristici. Beh, quello insomma. No, però non si può prevedere quando arriverà il bonifico, quello mai. No, ma perché quello. Sì, una volta che hai sottratto le spese fisse alle entrate regolari. Ma quali entrate regolari? Lasciami finire, una volta che hai la cifra a tua disposizione, la puoi dividere per 365. Vabbè, ottieni così, Drago, molto semplicemente la cifra che puoi permetterti di spendere ogni giorno. Sì. Se non la spendi tutta, quello che avanza si somma al gruzzolo precedente, per cui bisognerebbe aggiornare il calcolo tutti i giorni. Ma basta farlo. È molto comodo, molto brillante. Insomma, però, un metodo consigliabile a tutti per evitare di finire a più 36 euro meno 36. A meno 36 sul conto corrente. Che se arriva un addebito per qualche bolletta del telefono del gas, io vado in rosso, non esco più ancora di più. Ma senti, invece di intristire la gente con queste cose, tu occupati di programmare le tue spese. Siamo ottimisti, perché senza ottimismo non si arriva da nessuna parte. Sono sempre stato ottimista. Infatti, ecco dove sono arrivato. Devo dire queste robe qui. Certo, ecco, guarda dove sono arrivato. Dovresti già essere contento di aver passato un altro anno, Drago. Guarda che l'obiettivo finale è soltanto uno. Evadere la ritenuta d'acconto. Ma no, diventare vecchi prima di morire. Per un mese circa le redazioni dei settimanali, dei magazine collegati ai quotidiani, dei siti, dei siti del famoso internet, delle reti TV, della famosa televisione, hanno dormito sonni agitati, perché i poveri redattori sono entrati in una particolare condizione psicologica che li ha tenuti soggiogati fino a questi giorni: la fregola dell'anno vecchio. Anzi, la fregola dell'anno vecchio. Eh sì, perché di colpo l'anno vecchio, insomma l'anno che sta finendo, il 2012, diventa interessantissimo. Tutti cercano di farti venire la nostalgia di un anno che deve ancora finire e che tra l'altro dimenticheresti anche subito volentieri. Insomma, i servizi in TV mettono dei sottofondi strappalacrime, tipo momenti di gloria, e fanno vedere le cose che sono successe, gennaio, febbraio, e il record è quello che muore, quello che nasce. I titoli dei box sui giornali sono stra ad effetto, arguti, allusivi. Tipo? Si credono tutti Hemingway, sti qua, non lo so, che ne so. Ma chi? E quelli che fanno i titolisti. Perché Hemingway faceva anche i titoli dei suoi Può darsi, no? Faceva anche il giornalista. Poi per un mese questi topi d'archivio hanno messo da parte le foto, gli articoli, i dati, soprattutto le date, per sintetizzare in poche pagine o in due minuti tutto il bello e il brutto dell'anno che sta finendo. Sì, e il fatto è che se io dovessi fare uno sforzo di memoria adesso, anche tu, Drago, per ricordare qualcosa che è successo a gennaio di quest'anno. Del 2012. Quindi praticamente un anno fa. Cosa ti ricordi? Io non mi ricordo niente. Forse l'Inter ha acquistato Juan Jesus. No. Ma cosa c'è, Tito? No, come cosa, cos'è? Calcio. Juan Jesus. Jesus. Ma che nome è? Sai, i brasiliani usano i soprannomi perché hanno i cognomi lunghissimi. Lui chissà come si chiama. Allora sì, il nome è Juan Jesus. Del gennaio 2012 ti ricordi soltanto che l'Inter ha comprato Juan Jesus. Beh, la cosa che mi ricordo meglio. Ma pensa a te. Cioè, ricordo anche che proprio il 31 dicembre, o era il 1 gennaio, non so, è uscita la notizia che Don Verzé, dopo una prima parte della vita piena di successi e una seconda parte della vita piena di sospetti, è morto. Ti ricordi forse? Invece mi ricordo il comandante Schettino, la Costa Concordia. Era gennaio 2012? Mi sa di sì. Cioè, ma la nave è ancora lì ed è già passato un anno. Ma guarda, terranno lì per sempre. Cosa dici? Dai, sì, nelle mappe più aggiornate ormai c'è la Concordia, è praticamente un atollo, una roccia. L'atollo Schettino, a largo dell'isola del Giglio. Cioè non tanto al largo, insomma. Beh, ma come dice il proverbio, tanto va la barca al largo, poi ci pensa lo Schettino. Wow, questa potresti venderla a Striscia. Ma dici che pagano? Ciao ragazzi! E Alberto dov'è? Come non c'è? E dov'è? No! E io come faccio? E che sto a fare qua? Alberto! Mi sembra un carcere, questo asilo è vuoto senza di te. Non riesco a vivere, cos'è? Quanto fai ridere tutte le volte che mi parli di me. Aspetto il giorno per vederti e dirti che te voglio bene. Vabbè, ma qui non è una questione di fraintendere. Mi sembra tutto abbastanza esplicito, no? cioè chiedo asilo. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, lasciala andare. Quando l'amore arriva il campanello suonerà. Quando l'amore arriva al campanello suonerà. Quando l'amore arriva al campanello suonerà. Ma non dice drin drin, dice suonerà. Drin drin.